Letture di Radio 24. Gli Atenei della Cina sfornano ogni anno 5.000 ingegneri e sono diventati appetibili anche per gli stranieri. Il risultato è che ogni sede universitaria in questo inizio dell'anno accademico è presa d'assalto dalle matricole e dai loro genitori in visita per organizzare la nuova vita dei figli. L'inizio dell'anno accademico è un periodo d'oro per gli albergatori cinesi. Migliaia di genitori invadono le città per accompagnare i ragazzi e rendere meno difficile l'ingresso nella vita universitaria. Gli alberghi sono pieni e, hanno riferito i media cinesi, l'80% delle camere è prenotata da chi accompagna le matricole. Per chi non trova posto negli hotel, sono stati organizzati dormitori nei campus. Per mangiare ci si affida alle mense. Entrare all'università e, soprattutto, accedere a un ateneo considerato di prima classe costa fatica e impegno. Quando preparai l'esame, mia madre chiamava il taxi per portarmi a scuola, così che non dovessi prendere il bus e potessi dormire un quarto d'ora in più, ha raccontato Wang Ximin, 23enne studentessa della East China Normal University. In cifre, questa premura per il percorso di studi dei giovani cinesi si traduce in un aumento esponenziale del numero dei laureati. Erano meno di 1 milione nel 1998. 7 anni dopo, dalle università del paese di mezzo, 3 milioni di studenti uscivano con una laurea in mano, mentre nello stesso periodo di tempo il numero degli iscritti si quintuplicava, e tutto con un'attenzione particolare per le materie scientifiche, con in cima l'ingegneria. Così, se i campus statunitensi sforneranno quest'anno 150.000 ingegneri, nelle università cinesi il numero sale a 500.000. In molti nella Repubblica Popolare sono convinti che il mondo accademico cinese sia ancora inadeguato. Mancano università di prima classe, ha sentenziato un sondaggio del China Youth Daily a giugno. Un'opinione condivisa dal 58,8% degli internauti, scossi perché nessun ateneo cinese è tra i primi 10 nella classifica sulle migliori università dell'Asia. Il primo passo per scalare le classifiche è attrarre gli studenti stranieri. In totale, dicono i dati del Ministero dell'Istruzione, gli stranieri che frequentano un'università cinese sono 240.000, 5 volte quei 52.000 che già 10 anni fa avevano deciso di formarsi nella Repubblica Popolare. E una spinta a questo progetto è arrivata dalla stessa amministrazione americana. Oggi sono poco più di 18.000 gli studenti statunitensi oltre la muraglia, ma nei prossimi 4 anni diventeranno almeno 100.000. In Cina è boom di universitari e lo Stato dà i letti a quelli in fila. È il titolo dell'articolo di Andrea Pira, pubblicato da Il Riformista di mercoledì 8 settembre. Letture di Radio 24. Da qui a novembre si terrà in Sicilia un test a cui parteciperanno i quasi 5.000 dipendenti precari della Regione Autonoma Sicilia. Lo scopo è trasformare i precari in dipendenti con il posto fisso. Lo scandalo non è la pur massiccia iniezione di personale da parte di una regione già fortemente indebitata, ma piuttosto nelle prove d'esame a cui i candidati dovranno far fronte. Sai fare una fotocopia? Bene! Sai farla addirittura fronte retro? Ancora meglio! Oltre 4.000 persone in servizio permanente effettivo da precari, da 10, da 15 o in molti casi da 20 anni, alla Regione Sicilia attendono solo di essere messi alla prova. A dura prova. La prova della fotocopia, appunto, per conquistare finalmente il posto fisso. È l'altra faccia dell'Italia, quella della semplicità eccessiva, che esce con il timbro dell'ufficialità dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Un'opportunità che interessa complessivamente 4.912 persone. Ma entriamo nei particolari indicati nel programma d'esame. Rischiando il tutto per tutto, gli aspiranti al posto fisso in categoria A dovranno superare, oltre al test della fotocopia, anche la non meno difficoltosa prova nell'apporre la data su un documento utilizzando il datario. Quindi si giocheranno la loro credibilità dimostrando di saper predisporre una busta, mettere un indirizzo e il timbro del mittente. Stremati per questo ulteriore ostacolo, ecco che subito dopo i precari in attesa di giudizio, o meglio del posto fisso tanto agognato, si dovranno impegnare allo spasimo per superare l'ultimo, decisivo scoglio: spedire un fax. Se vogliamo essere proprio precisi, nella tabella dei test si usa l'espressione fare un fax, il che può far presupporre che il fax non solo venga spedito, ma anche compilato a cura del candidato, ma non vorremmo mettere una pulce nell'orecchio degli esaminatori e complicare con questa nostra considerazione la vita dei candidati. Il punto sul quale invece vorremmo attirare l'attenzione è che ai precari in attesa di promozione si chiederà solo ed esclusivamente di fare un fax, e uno soltanto, non 2, 3 o magari 50, come può capitare di fare in un giorno in qualsiasi ufficio pubblico a qualsiasi latitudine del globo terrestre. Un fax e uno soltanto basterà, finalmente, a spalancare le porte per l'ingresso nella categoria A. Perché infatti, se si vuole o si è in grado di strafare facendo più di un fax, allora si può anche tentare la strada per venire assunti in categoria B. Posso ben comprendere che queste prove suscitino sorpresa e ironia, obietta garbatamente il signor Giuseppe Amato, dirigente dell'assessorato regionale alla funzione pubblica, ma questo è esattamente ciò che si può contrattualmente chiedere, secondo il mansionario, ai lavoratori di categoria A e di categoria B. E contrattualmente la regione siciliana si comporta esattamente come le altre regioni a statuto autonomo. Per intenderci, non è che ci siamo inventati noi queste prove. Puntuali e utili precisazioni, non v'è dubbio, ma l'ironia o la sorpresa resta lecita se si va a spulciare tra le verifiche di idoneità che la regione Sicilia chiederà ai precari che aspirano alla categoria B. Dovranno saper fare fax anche a più pagine e a numeri internazionali. Dimostrare di saper protocollare mediante protocollo cartaceo o informatico lettere in entrata e in uscita, nonché di essere capaci di archiviare documenti mediante l'uso di strumenti informatici o mediante compilazione di schedario. Per concludere con un esame di videoscrittura o di uso del foglio elettronico e con la predisposizione di un modulo per raccomandata. Le verifiche attitudinali potranno tenersi fra il 4 ottobre e il 5 novembre, ma visto che già 4.722 sui 4.912 potenziali candidati hanno presentato domanda, le prove potrebbero venire anticipate a fine settembre. E meno male, altrimenti sai che spreco di carta a furia di allenarsi a fare fotocopie. Avete ascoltato l'articolo La Sicilia assume, basta saper spostare un foglio, firmato da Gabriele Villa e pubblicato da Il Giornale di giovedì 17 settembre. I sacchetti di plastica hanno i giorni contati. Da gennaio sarà obbligatorio fare la spesa solo con quelli ecologici e le multe per i trasgressori potranno arrivare fino a 250 euro. Inquina troppo e lo si è tollerato troppo a lungo. La sua fine è stata annunciata e smentita più volte. Ma adesso forse ci siamo. Il conto alla rovescia per la fine del sacchetto di plastica è davvero cominciato. Tempo 3 mesi e non sarà più possibile uscire dal supermercato con la borsa che è diventata un simbolo dei nostri anni spreconi. Le shopper spariranno per legge e al loro posto saranno ammesse solo le più rispettose buste ecologiche che sono biodegradabili. La rivoluzione doveva entrare in vigore l'anno passato, ma un emendamento nascosto nella finanziaria ha fatto rinviare tutto di un anno. Dunque adesso ci siamo. Dal 1 gennaio 2011 il divieto, santificato da una direttiva europea, dovrà scattare in maniera assoluta. La strada in realtà è già cominciata. Sono almeno 150 i comuni che hanno dichiarato off-limits il loro territorio alla borsa di plastica e quasi tutte le catene della grande distribuzione si sono adattate. E se a Milano l'Esselunga sta per lanciare la sua iniziativa sulla spesa ecologica, la Coop annuncia che in quasi l'80% della sua rete commerciale c'è già stato il cambiamento. Chi ha monitorato le opinioni dei consumatori conclude che c'è da stare tranquilli. Apprezzano. La città pilota è Torino, dove a fine settembre partirà la fase 2. Chi cioè sarà sorpreso a consegnare la spesa in un sacchetto di plastica dovrà pagare una multa fino a 250 euro. Roberto Tricarico, l'assessore che ha guidato l'operazione, ne trae un bilancio molto positivo. Nei negozi, dice, quelle borse sono scomparse, resistono solo nei mercati rionali. Ad aver convertito in massa i torinesi è stata una campagna intitolata O la borsa o la vita, La Val di Fiemme ha cancellato i sacchetti di plastica addirittura nel 2009. Andrea Ventura, direttore dell'azienda dei servizi, racconta dell'accordo quadro fatto con i commercianti. A distanza di un anno il nostro sistema è a regime e non c'è più nessuno che lamenti il costo maggiore e la resistenza minore dei sacchetti in amido di mais. Un'inchiesta fatta attraverso interviste ha anche spiegato perché i mugugni sono scomparsi. È come se si fosse fatta strada una nuova cultura che privilegia il bene comune. Maura Latini, vicepresidente di Coop Italia, non ha dubbi. Il vero cambiamento deve essere culturale e i nostri consumatori stanno reagendo benissimo. L'80% ha accettato di buon grado quello che inizialmente può apparire uno svantaggio. Certo, il sacchetto bio è meno resistente e costa di più, però non è nemmeno l'unica strada. A Caiazzo, in provincia di Caserta, impegnata in un progetto battezzato Città Slow, stanno spingendo sul ritorno alle vecchie sporte. Quelle che Andrea Poggio, impegnato con Legambiente in una raccolta di firme per evitare che la data di morte delle shopping bag subisca un altro rinvio, chiama con nostalgia le Rolls Royce della spesa. I sacchetti di plastica possono andarsene in pace, pochi avranno rimpianti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Cinzia Sasso, L'ultima spesa con le buste di plastica. Da gennaio arrivano le shopper bio, da Repubblica del 9 settembre.